ad alta voce. Valentina Carnelutti legge L'ora di tutti di Maria Corti. 20ª puntata. Aloise De Marco. Le campane di Otranto suonavano a piena festa mentre da ogni quartiere della città uomini e donne vestiti di mille colori con andatura disinvolta, gioiosa e spedita che dava a tutti un piglio di giovinezza avanzavano verso la piazza della cattedrale raccontandosela e ridendo sotto i raggi del sole ottobrino, rimbalzanti con tanta leggiadria dalla terra al mare che il mondo sembrava improvvisamente piombato in un'eccezionale pausa di felicità. Spiccavano tra gli uomini di guerra dame di fattura delicata, di carne fresca, in sopravveste di broccatello, belle più che mai e fiere come se fossero state la gloria stessa dei soldati vincitori fattasi persona. Qua e là invece qualche vecchio nobile salentino camminava da filosofo de contemnenda gloria, sguardando la folla festosa, in mezzo a cui ufficiali napoletani caracollavano su bestie snelle e capricciose ornate di frange d'oro, eccitate dalla novità. Erano i primi di ottobre dell'anno 1481 e a Otranto si festeggiava solennemente con un Te Deum nella cattedrale la liberazione della città, avvenuta il 13 settembre dello stesso anno ad opera delle milizie di Don Alfonso d'Aragona. Dai tempi della giovinezza io non vedevo Otranto in un giorno di festa, da quando la mia famiglia s'era trasferita a Napoli e io avevo 20 anni. Era dunque passata una decina d'anni, durante i quali la distanza dalla città nativa, la vita della capitale e della corte avevano trasformato Otranto in una di quelle realtà interiori che assomigliano più a un fatto dell'immaginazione che a una somma di cose vere. Le piccole case bianche dei pescatori nei paraggi del porto, complici dei miei avvenimenti infantili e delle fantasie d'allora, vivevano entro la mia anima di una vita specialissima, intermittente, legata alle occasioni della solitudine e del profondo raccoglimento. Quando il duca Alfonso radunò le truppe per liberare la città dall'occupazione turchesca, mi trovai di mezzo fra gli agi pacifici della vita napoletana e il richiamo sottile della mia giovinezza. Optai per il secondo e presi parte alla spedizione. Quel giorno di ottobre mi avviavo verso la piazza di Otranto con Giovanni Francesco Caracciolo, comandante del presidio di Brindisi, il quale a un tratto, dopo aver fissato il bel campanile che si levava sulla destra della cattedrale, inondato di sole, scoppiò in una risata. Fu un vero e proprio spettacolo. Mi pare di vederlo ancora lassù fare riverenze e mostrarci il sedere. «Ma chi?» io domandai incuriosito. «Il muezzin!» Durante i giorni dell'assedio lui saliva ogni vespro in cima al campanile e lì, per chiamare alla preghiera, un mucchio di riverenze a destra e a sinistra, voltando sempre le spalle a nord-ovest, dove stavamo noi, sicché lo vedevamo o di schiena mentre agitava le braccia in aria o di sedere mentre faceva le riverenze. Un giorno Don Alfonso disse a uno dei bombardieri: «Buttami in aria quel pipistrello e ti regalo un alfonsino d'oro». Il bombardiere, fatte schioccare le dita, diede la parola e cominciò a tirare da un poggetto a ovest del borgo, distante una 30ina di passi dalle mura. Tirava a capriccio, appositamente, colpi di qua, colpi di là, perché quello non si vedesse preso di mira e restasse lassù. Quando ebbe studiato bene il colpo, disse a Don Alfonso: «Vostra Eccellenza, faccia attenzione, ora tiro giusto», e diede fuoco alla bombarda. Lo colpì dritto nella schiena, mandandolo per aria in mille pezzi che ricaddero lontano dal campanile in direzione delle mura. «Ah!» scoppiò di nuovo a ridere Gianfrancesco. «Avranno avuto un bel da fare i turchi a raccogliere tutti i pezzettini». Passo passo eravamo arrivati alla piazza della cattedrale. «Ma vuoi entrare in chiesa?» domandò stupito Gianfrancesco. «Bisogna entrarci», risposi. «Predicherà il nuovo arcivescovo». «Fra Serafino?» lui sghignazzò. «Ma quello non sa predicare, basta che dica 3 parole e tu subito puoi prevedere quelle che verranno dopo». «Beh, poveretto, è un uomo laborioso, tutto dedito alla salvezza delle anime. Infine, è un frate che ha della religione», io risposi. «La salvezza delle anime», sghignazzò nuovamente Gianfrancesco. Sai cosa sono per lui le anime? Qualcosa di simile a una partita di lenzuola che devono essere preservate mediante preghiere e genuflessioni dalla polvere e dal fango del mondo che può danneggiare il loro candore sino a differenziarle in tre categorie ben distinte. Anime salve, salvabili, dannate. Altro sulle anime non sa e non vuol sapere perché non riguarda il profitto dei cieli. Camminammo qualche minuto tra la folla in silenzio. Dopodiché lui riprese a parlare. Ricordo quando mi entrò una freccia nella spalla a Minervino, presso uno di quei pagliarotti che i turchi costruivano nella campagna e incendiavano al nostro arrivo per dare segnale dentro la città. Bene, fui spogliato, disteso dai miei soldati su un letto in una casupola del paese, dove rimase con me un servo che mi vegliava seduto in terra. Indebolito dal sangue perso, io me ne stavo in una sorta di dormiveglia, entro la quale udivo lontani gli scoppi delle bombarde. Venne il crepuscolo. Aprendo gli occhi vidi le prime ombre notturne navigare nel cielo e con esse avanzò certa tristezza catastrofica che ti prende quando sei in letto al crepuscolo. Cosa da diventar pazzi se le si dà retta. Allora mi misi a pensare alle donne con cui avevo fatto l'amore negli ultimi tempi, lo crederesti? Presero subito forma nella mia mente che pareva tanto svagata e persa dietro l'eterno. Ne vedevo una alla finestra, protesa in giù col seno che scappava dalla scollatura, un'altra che si svestiva, buttava in un angolo le scarpette e girando a piedi nudi per la stanza si spuntava la gonna, accompagnandola con le mani fino a terra nel gesto di toglierla e poi graziosamente scavalcandola con le gambe nude da toglierti il fiato. Penetravo con una chiarezza miracolosa nei ricordi che sfociavano uno nell'altro, incomparabilmente lucidi e corroboranti. Guarda com'è ricca la mia vita, pensai. E in quella mi accorsi che era passato del tempo, s'era fatta notte, e il servo dormiva ai piedi del mio letto con le gambe incrociate alla turchesca. D'un tratto bussarono all'uscio. Il servo si scosse, prese la lucerna, andò a vedere. Ritornato nella stanza, alzò col braccio destro la lucerna al di sopra del suo capo per meglio vedermi. E mi osservò tutto, dalla testa ai piedi, come se avesse a risolvere in base a quello sguardo un certo problema. «Beh, che c'è?» io chiesi. «È arrivato fra Serafino», disse. «Vi vuole confessare?» «A quest'ora?» Mi rizzai di schiena per quanto potevo, gridai al servo. «Dia fra Serafino che dormo!» Lui uscì, tornò. «Ha detto fra Serafino di svegliarvi!» Allora persi la pazienza. «Dia fra Serafino che stia tranquillo, che non muoio questa notte!» e che perciò può venire a confessarmi domani se proprio ci tiene. Il servo uscì, riferì, ma fra Serafino volle accertarsi di persona. Comparve sulla porta della stanza con quel suo grasso pallido e sfatto e disse: «Volevo portarvi la benedizione del Signore, Don Francesco». «Grazie, fra Serafino», mi toccò rispondere. «Come mai in giro a queste ore?» «Passavo di qua, volevo vedere come state», rispose. Io sono sicuro che non passava per niente di là. C'era venuto apposta per la fissazione della mia anima. Vedo con piacere che state meglio e ora me ne vado. Tornerò domani mattina a salutarvi con vostra licenza. Andate a dormire, fra Serafino, risposi. Avete la faccia stravolta, state peggio voi di me. Lui sospirò, chinò il capo, disse: «La guerra è una prova di Dio in cui le anime si possono smarrire». Restò un momento sopra pensiero e soggiunse: «Il mondo, amico, è pieno di peccati. È una cosa impressionante. Se pensate che basta perdere una messa per andare all'inferno, c'è di che spaventarsi. Uno in guerra può morire da un momento all'altro. Che sarà di lui se non provvediamo in tempo?» Un piccolo fremito, come un brivido, lo scosse alle ultime parole. Il mio servo, che reggeva immobile la lucerna, lo guardava pieno di attenzione. «Per quel che riguarda me potete stare tranquillo», gli risposi. «Non ho nessuna intenzione di morire». Fra Serafino uscì in un sorriso gracile, ma i suoi occhi rimasero preoccupati. Dicevano: «Tu hai l'aria di pensare, amico, e questo è il più grosso pericolo per l'anima». Infine le sue labbra gonfie, pallide, molli, cominciarono a bisbigliare una preghiera. Accostatosi al letto, fece un grandioso segno di croce e concluse: «Che il Signore vi benedica e vi illumini». «Grazie tante, fra Serafino, e buonanotte», io risposi. La stanza tornò vuota, ma ormai l'incanto dei ricordi era svanito. Al mattino era lì, puntuale per confessarmi. Gianfrancesco tacque. Eravamo proprio nel centro della piazza, ai bordi della quale una piccola folla di popolo stava ritta in silenzio a guardare l'arrivo dei signori e delle dame diretti alla funzione. Erano contadini dell'interno o pescatori dei casali marini, venuti a riempire il vuoto lasciato dalle stragi dei turchi fra la popolazione otrantina. «Porco diavolo!» rispose Gianfrancesco. «Ne ha fatta però della carriera quel fratone. Chi avrebbe mai immaginato che un giorno fra Serafino doveva darci l'anello da baciare?» Si udiva fin dalla piazza la voce grave e insieme monotona del predicatore, allorché ci dirigemmo verso l'ingresso laterale della chiesa che ci avrebbe permesso di trovarci già a metà della navata di sinistra. Vi si accedeva per due rampe opposte di scale, convergenti su un pianerottolo, costituite da una ventina di gradini, i cui urli erano consumati dalla pietà dei fedeli o sbocconcellati dalla violenza dei proiettili. La cattedrale appariva affollatissima in tutte e tre le navate. Ai piedi dell'altare, nella navata centrale, prendevano spicco l'inginocchiatoio e la poltrona del duca Alfonso, imbottiti e trapuntati di damasco rosso, dietro cui sedevano notabili del regno, baroni, comandanti di milizie, compresi dell'alta uniforme e di trovarsi seduti in prima fila, immobili, sicché li avresti assomigliati a statue se di tanto in tanto i muscoli agli angoli della bocca non si fossero contratti e il viso di qualcuno arrossato per l'impossibilità di sbottonare il collare e pigliare aria. Esprimevano investitura e cupidità di potere in ogni parte, nelle cappe, nelle gonnelle, nelle mani nobilmente sovrapposte, nei colli irrigiditi. «Noi dovremmo essere là», dissi. «Già, ma si sta molto meglio qui», rispose Gianfrancesco con un sorriso malizioso. L'arcivescovo Serafino passava lo sguardo sull'umanità distesa ai suoi piedi e parlava con voce grave, pesata. Al momento in cui noi due entrammo nella cattedrale, stava descrivendo l'ultima notte trascorsa dai martiri otrantini nei sotterranei del castello, e c'era tanta sicurezza nella sua voce quanta ne avrebbe avuto un testimonio oculare del fatto. Il pubblico ascoltava estatico, ubriaco di fede. La sua anima era in mano all'arcivescovo. Alla fine della cerimonia, quando la folla prese ad uscire dalle tre porte della facciata come un gran fiume che sfociasse in ondate successive nella piazza, i volti della gente esprimevano una strana, stupefatta distrazione. Ciascuno, secondo la sua natura, fantasticava sul grande evento passato da oltre un anno, a cui tante altre vicende di guerra, di morte, di vita erano seguite, ma che l'arcivescovo quel giorno, con la sua predica, aveva rifatto presente, di una presenza sconcertante, di fronte alla quale non trovava più posto la letizia spensierata di un'ora prima. Gli amici si serrarono agli amici, si formavano crocchi in cui prima sottovoce e poi man mano a voce più alta si commentava la cosa, mentre alcuni uscivano in esclamazioni di meraviglia, sì da non mantenere più un'aria ragionevole, altri si guardavano attorno, fissavano i palazzi ornati con stendardi e festoni di fiori, il mare lontano azzurrissimo, lo sfondo verde dei colli che sembravano messi lì per la gioia degli occhi e cercavano una liberazione dall'atmosfera intrisa di eroismo che minacciava di asfissiare le loro anime di viventi tranquilli. Qualcuno più irrequieto trovava che erano degli esseri assai curiosi, santi, che cantavano prima di morire, vedevano ginocchioni il paradiso, restavano eretti con la testa mozza, mentre tutto il resto dei mortali avrebbe avuto una strepitosa paura di fronte a una scure. Allora Gianfrancesco disse che la cosa comunque non era provata e secondo lui quegli otrantini santi l'avevano avuta anche loro, poveracci, la paura l'ultima notte e non si erano sognati per niente di cantare, e che il maggior pericolo che potesse capitare alle azioni grandi della storia era che gli uomini come fra Serafino cominciassero ad amarle. Alle quali parole Don Matteo di Capua rispose che la colpa non era di fra Serafino, perché tre quarti degli uomini erano affamati di schemi straordinari, tanto che appena si verificava l'occasione vi inserivano anche se stessi e a toglierglieli le loro anime sarebbero andate consunte. La conversazione si animò, perché le parole di Gianfrancesco e di Don Matteo parvero ai più poco gradevoli, oltre che poco rispettose della santità dei martiri. Ma in quel mentre si accostò al gruppo il duca Alfonso, il quale, soddisfatto di essere vincitore, di trovarsi nel suo elemento fra soldati e belle dame in una splendida giornata di sole, in quella Otranto assediata faticosamente per mesi, esclamò con brutale calore: «Bene, amici, l'arcivescovo ha visto le cose in modo confacente alla sua santità. Io da soldato vi posso dire che, se noi abbiamo mandato i turchi a gambe levate, lo dobbiamo a quei fermi e risoluti popolani che, prendendola a pugni con uomini armati di spade, hanno tenuto duro, ostinati per 2 settimane, dandoci il tempo di preparare la difesa». Fu come se un incubo fosse scomparso dalla piazza e la serenità tornò da sé sulle facce di tutti, tant'erano solide e concordemente chiare quelle ragioni. Ci avviammo passo passo verso il castello, facendo corteo al duca Alfonso. Eravamo una 20ina di baroni e militari, in mezzo a cui il duca spiccava nella sua zamarra di argento e seta, senza armi, a capo scoperto, alto, tutto pieno di salute e vigoria. Dietro di noi seguivano i paggi in sopravvesti gialle, bianche e nere, mentre lungo i muri delle case i contadini e i pescatori, trasferitisi a Otranto dai vicini casali o dall'interno, silenziosi ci guardavano passare, immobili, con aria tenace, quasi dura. «Gente da benissimo», disse il duca indicandoli, «che non unge gli stivali a nessuno». Poi si parlò di cavalli, quando ecco alle nostre orecchie giungere da una via traversa suoni di pifferi e di cornamuse, un motivo festoso di marcia, come il passaggio di un'idea felice nell'aria. «Che cos'è questa musica?» disse il duca. «Andiamo un po' a vedere». Le canne degli strumenti divenivano una sola canna al mio orecchio, un grande unicorno che sconfiggeva il dolore, la voce del mio popolo rinata, un canto di nozze. Otranto prendeva l'anello nuziale. Sbucammo nella via traversa proprio mentre giungeva il corteo popolano. Davanti gli sposi, 2 contadini, dietro i parenti e gli amici col vestito della festa, pennacchietti a colore sulle berrette, ciascuno di essi del tutto occupato a stare al passo, perfettamente dietro a quello che lo precedeva e perfettamente davanti a quello che lo seguiva, in modo da mantenere drittissima la fila per 2 nel mezzo della via. Un paggio si informò, portò al duca la notizia che un giovane della masseria di San Donato si sposava ed era il primo marito dopo la liberazione della città. Per questo i suonatori di pifferi e di cornamuse lo festeggiavano. Il duca si godeva la processione, la guardava coi suoi occhi un po' strabici, che noi chiamiamo lazzi, diceva: «Meraviglioso!» Diceva: «Queste nozze sono un simbolo, amici. Sì, perché le piccole cose, non le grandi, segnano i veri cambiamenti. Noi si vive a mano, in verità». «Sapete che si fa?» disse il duca. «Questo vespro si va tutti al ballo e io aprirò le danze con la sposa». La masseria di San Donato era un basso e massiccio edificio di pietra su cui si aprivano qua e là asimmetriche delle finestrelle così minuscole da dare alla facciata l'aria di una fortezza, il tutto suggerito naturalmente dalla secolare necessità di difesa contro le scorrerie saracene. Poiché nella grossa masseria abitavano 3 famiglie di coloni, costituite ciascuna di padri, di figli e di una serie innumerevoli di nipoti e pronipoti, come un piccolo paese, in occasione della festa di nozze tutti costoro si erano disposti in bell'ordine, con sgargianti gonnelle, lungo il muro del cortile interno, in attesa che arrivasse il duca e avesse inizio il ballo, nella posa raccolta, tranquilla e paziente che si assumevano di fronte a qualsiasi cerimonia, sia di lutto che di festa. Al nostro arrivo fecero un'accoglienza ossequiosa a tutti, anche ai cavalli. Indi avanzarono nel mezzo del cortile i 3 capifamiglia, i quali, giunti davanti al duca, cominciarono a sgranare dignitosi e composti le parole d'uso, che dall'infanzia sapevano a memoria, avendole sentite recitare dai nonni e dai padri ogni volta che alla masseria era giunto qualcuno vestito di seta, di velluto o di broccato. Educati solo dalla lunga servitù, coltivavano nei nostri riguardi un'unica idea, che cioè noi avessimo assoluto bisogno di omaggi alla stessa stregua come l'avevamo di sete e di broccati. Perciò, quando il duca, con le sue maniere sbrigative e militaresche, tagliò corto agli omaggi, esclamando che quel giorno si dovevano festeggiare solo i primi sposi otrantini, i 3 vecchi lo guardarono con sospetto. Ma il duca, che non aveva sensibilità e immaginazione per altro che non fosse il mestiere delle armi, non s'accorse di nulla e proseguì bonario. Dove sono gli sposi? Fuori gli sposi, dunque. Allora la coppia si fece avanti, con quel fare pensoso che è frutto di timidezza e a cui corrisponde una mente completamente vuota di pensieri. La sposa, che lo sguardo di uno solo di noi avrebbe a sufficienza intimidito, sentendosi addosso gli occhi di tutti, era nell'impossibilità fisica di alzare i suoi, sicché, quando il duca si tolse dal dito un anello e glielo offerse in dono, la sua emozione, essendo giunta al massimo, ella si impietrì. Un momento di generale immobilità seguì per tutti i coloni, presenti a una scena che non faceva parte di nessuna delle regole seguite sino ad allora da secoli nelle feste di nozze, essi tacevano in una maniera singolare. Allora il duca, che aveva deciso di occuparsi per quel giorno delle gioie dei contadini, ma che tali gioie vedeva da principe, chiamò i paggi e ordinò di distribuire a tutti da bere in abbondanza. Avevamo difatti portato con noi grande quantità di vino, che presto scaldò l'atmosfera. Su proposta del duca, si bevve alla salute della rinascita di Otranto, liberata dal turco, e subito egli prese a raccontare a voce alta episodi di guerra, l'occupazione di Minervino, la sortita del conte Giulio Acquaviva nella selva di Giuggianello, la vendetta fatta sul soldato turco che gli aveva ucciso un paggio e che, terrorizzato alla vista delle insegne del duca, se n'era fuggito in mare a cavallo. Parlava, animandosi e gesticolando, come se una schiera di turchi avanzasse nel cortile incontro a lui. Alla maniera degli uomini che nutrono una sola viva passione nella vita, non sapeva parlare e interessarsi d'altro che di cose che la riguardassero. Presto il duca e Gianfrancesco Caracciolo cominciarono a friggersi nell'olio caldo della festa e a divenire un po' brilli. La cosa attrasse tutta l'attenzione dei coloni, presi dalla stranezza del fatto che mescolava una punta di ridicolo alla venerabilità dei signori. Io pensavo che la maestà del re Don Ferrante, padre del duca Alfonso, cima di politico, non si sarebbe mai concessa una cosa simile. Avrebbe capito il pericolo di farsi vedere dai coloni un uomo come loro e insieme situato al di sopra di loro. I più giovani fra i contadini ridevano cautamente, con lentissime e quasi impercettibili mosse della faccia. Ero io solo a capirlo. Forse perché unico non bevevo, perché essendo nativo del luogo conoscevo meglio di ogni altro la mia gente. Ma la conoscevo poi. Chi lo direbbe, pensai, che questa razza, se capita, fa quello che ha fatto contro i turchi, che sia una forza del sangue? Chi lo direbbe che è tanto difficile capire quello che passa nel cuore di costoro? Amico, state sognando, gridò una voce al mio orecchio. Non perdetevi sempre dietro le cose dell'immaginazione, bevete invece. Era il duca in persona che mi offriva una coppa e mi svegliava dalla meditazione in cui ero piombato. Non bevo mai, eccellenza, lo sapete, risposi appena. Un uomo dotato di un'anima nobile deve bere, altrimenti si incupisce fatalmente, come accade a voi. Io non mi incupisco, eccellenza, risposi. Io amo l'odore di finocchio e malvarosa dei campi, la tranquillità della gente di qui. Il duca, che era reso loquace dal vino, mi prese per un braccio. Su questa strada, amico, breviter diventerete un buon poeta di provincia, ma ce n'è già un nugolo in giro per il regno. Vedete, anch'io amo la campagna, ogni tanto. Oggi, per esempio, mi godo questa eccellente giornata all'aperto, ma la differenza sta nel fatto che per me l'odore della malvarosa, o che so io, non è un avvenimento che mi faccia restare sospeso di cervello. Tale genere di discorsi aveva il potere di rendermi goffo, ma per mia fortuna in quel momento il duca si accorse che la sposa non beveva. Allora si portò davanti a lei e le offrì la coppa che io avevo rifiutato. La giovane donna, circondata dalle altre contadine, si schermiva, imbarazzata, arrossendo, balbettando inutili ringraziamenti e scuse, ma il duca, con la testardaggine di chi ha bevuto più del necessario, insisteva. Alla fine volle assolutamente che le portassero qualcosa da mangiare. Gridò che il mangiare insegna a bere. La testa della donna si perdeva. Infine venne il momento di aprire la danza di rito. C'era l'uso nella nostra terra che gli sposi aprissero la danza con un fazzoletto a colori in mano, di cui un capo teneva la donna e l'altro l'uomo. Quel giorno, al posto dello sposo, danzò il duca, ma dopo qualche figura del ballo, d'un tratto egli strappò il fazzoletto di mano alla sposa, lo fece roteare sopra il proprio capo qualche secondo, come una fionda, e infine lo lanciò in aria gridando: «Non più fazzoletti, ma si balli da mano a mano, alla libera, e questo sia il segno che voi non avrete più servitù. Avete inteso, uomini?» I coloni lo fissavano in silenzio, coi visi perplessi e un po' incantati. Indi tutti insieme alzarono le braccia e in coro mandarono un grido. Forse in quell'attimo sognarono veramente che la loro vita fosse cambiata. A un segno del duca, che sino alla fine si piccò di dirigere la danza, lo sposo gli subentrò, e allora tutti i coloni della masseria adagio entrarono a coppie nel ballo. Saltellavano e pestavano sempre il suolo nello stesso punto, ora con le mani sui fianchi, ora stendendo il braccio destro in modo che l'uomo toccasse la mano della donna, un po' impacciati, sia per la nostra presenza, sia perché non potevano più lanciarsi tra di loro l'abituale fazzoletto. «Bello!» esclamò di fianco a me Gianfrancesco, che si divertiva un mondo. Qualche stella affiorò dal cielo ancora azzurro e chiaro di luce solare, con un tremolio brillante. I piccoli, tenuti per mano dai vecchi, avevano gli occhi sgranati e insieme amorosi. Si erano innamorati delle coppie che danzavano e perduti in esse scoprivano mondi meravigliosi. Vidi vicino a me un vecchio, seduto con le gambe leggermente rattrappite e i palmi delle mani poggiati sopra l'impugnatura di un bastone. «E tu?» gli domandai. «Come te la sei passata sotto i turchi?» Contrasse i muscoli della faccia, secca e lucente come un fiore di cardo, e sorrise. «Mi sono nascosto in un pagliaro, signore mio, vicino a San Nicola di Casole, come una talpa. Ho detto, poiché Dio non si vede, bisogna capire che cosa vuole da noi. E poi ho cominciato ad aspettare. Mio figlio era morto combattendo, le donne le avevo nascoste nell'interno al paese. Io aspettavo i soldati del re per uscire dal pagliaro e tornare alla masseria. Eri sicuro che sarebbero venuti?» «E come no, signore? L'inverno fu feroce, c'era tanto umido e presi i dolori, che mi causavano fastidi, tanto che facevo fatica a muovere le gambe. Restavo seduto nel pagliaro e provavo nostalgia di quando ero giovane. Mi sembrava di essere diventato ormai un sassolino. Però, pensavo, tanti sassolini fanno una montagna e una montagna non può scomparire. Quando sono arrivati finalmente i soldati del re, li ho visti scendere a cavallo dall'altopiano. Avrei voluto correre loro incontro, ma le gambe per i dolori non si muovevano e restai sulla porta del pagliaro con la gola strozzata dalla voglia di gridare: «Ben arrivati, che Gesù Cristo vi accompagni!» Poi ruzzolai sul prato e passai non so quanto tempo a rotolarmi nell'erba con le braccia tese. Mi ero fatto stravagante, piangevo, finché due soldati napoletani mi vennero vicino. «Ehi!» gridarono. «Sei conciato, nonno, ma fa lo stesso, sei vivo!» Poi mi caricarono sulle spalle e mi portarono in una masseria dell'interno. «E ora sei contento?» «Eh sì, Dio è grande!» Proprio in quel momento uscì dalle bocche dei ballerini il canto tradizionale, a cui si unirono a poco i vecchi fermi con la schiena lungo i muri della masseria. Era una canzone d'augurio per gli sposi, ma stranamente malinconica, che contrastava in effetti con il passo della danza, quasi a significare il contrasto fra la letizia di una festa e l'incerto mondo. «Questa gente è oro puro», pensai fra me. «Ha capito tutto». E nel pensare questo i miei occhi corsero al colle della Minerva. Mi parve allora, buon Dio, di scorgere anche lassù una folla di otrantini danzanti e che dalle pendici del colle continuassero a salirne a gruppi, non come fantasmi, ma come uomini belli e vigorosi che nel tempo di una vita costruiscono qualcosa. Ero entrato con la mente in un mondo sconosciuto, forse in un lontano futuro. Gianfrancesco mi batté sulla spalla. «Si va via! Il duca ha detto che ora bisogna lasciarli godere da soli, in libertà. Dici che via noi si ubriacheranno? Hanno lì tanto di quel vino!» Dopo un po' disse: «Ma secondo te, a quella fanfaluca della fine del fazzoletto e della fine della servitù ci crederanno?» Alzai le spalle. Il colle della Minerva in quel momento era per metà nell'ombra, il sole stava calando e il mondo sembrava molto grande. Quanti anni sono passati da allora? Solo i vivi contano gli anni. Ed è mutato qualcosa? Thank you.